sanitari, eccetera, si rendano conto che le nostre rivendicazioni sono le loro stesse e che è necessario un cambio radicale. Una rivoluzione. Per questo non vi chiediamo medicine, cibo, abiti, le scarpe avanzate e le guardaroba vecchie. Noi vi chiediamo qualche cosa di più importante.